signori, vi prego, ascoltatemi, anche se la mia è una povera canzone da due soldi. Nelle vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno oppure al tramontar, una fisarmonica, un pianino, un postonato, capita assai spesso di ascoltare. Accompagnano un cantante d'occasione che per poco niente canta una canzone. È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi e risveglia in fondo all'anima i ricordi di una bella e spensierata gioventù. È una povera canzone per il cuore, poche notte con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Si vede aprire piano piano qualche finestra da lontan, c'è chi si affaccia ad ascoltar e sospirare. Una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi, per chi sogna, per chi spera, per chi ama, è l'eterna dolce storia dell'amor. Qualche volta una canzone da due soldi, presentata dagli artisti più famosi. E novità, il suo motivo l'indomani che 100 orchestre suoneranno, vestito di mondanità ovunque andrà. Ma la semplice canzone da due soldi finirà per ritornare dove è nata, per la strada su una bocca innamorata che cantando sogna la felicità. Due soldi, due soldi.